Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. E così alle 8:19 minuti ci siamo, caro Oscar. Eccoci qua, dopo che ho beccato che fanno i coretti con i ragazzini che dicono chi se ne frega la scuola. Ma no, dai. Una tirata d'orecchi invece che un chi sorriso compiacente. Vabbè. Se no finisce che fai come l'articolo sul gatto ed equivoco e fai un equivoco. Ah, ecco, ecco. Ma certo, il miglior amico dell'uomo. Ma no, scusate, ma tu non hai colto il segnale di quell'articolo? Il segnale. Che non è il cane, ma il gatto. No, no, era molto più subliminale, era molto più profondo. Lì diceva il titolo, infatti, il titolo doveva farti infatti più il miglior amico dell'uomo. Il non sottinteso. È la donna. Oh, vedi? Vabbè, ma vedi? Questo si sapeva già. È un altro uomo il miglior amico dell'uomo. Ah, ecco, no, va bene. Allora, ora che aggiungiamo all'interpretazione autentica, va bene. Okay. Perché prima ti ho sentito un po' con la povera amici a casa, mi ha telefonato dicendo guarda che l'articolo vuol dire un'altra cosa. Allora, oggi santi, vediamo qual è il santo migliore. Isidoro di Siviglia. Isidoro di Siviglia, l'ultimo grande padre della Chiesa latino, un spagnolo che ha scritto praticamente su ogni branca dello scibile umano dell'epoca, quindi è stato iperletto nel Medioevo, era uno dei fondamenti della civiltà occidentale, lo è stato per secoli, morto nel 636, appunto vescovo di Siviglia, punto di riferimento veramente su ogni materia, dall'astronomia alle ricette di cucina all'agronomia, l'equivalente di una enciclopedia occidentale. Oltre al Doctor Egregius, scelgo due altri santi su cui dedicare solo pochi secondi a testa. Uno perché è un santo calabrese del Novecento, perché pensate, è morto nel 1963 ed è stato proclamato santo da Benedetto XVI, si chiama Gaetano Catanoso, ha passato l'intera vita a fare il parroco nella Spromonte in Calabria, vicino ai poveri, a chi non aveva nulla, agli orfani, ai carcerati, un sacerdote diocesano che per tutta la vita si è solo sbattuto per chi non aveva niente, forse poco conosciuto fuori dalla Calabria, però per dire, nel Novecento abbiamo avuto delle figure che sono immediatamente per la Chiesa poi diventate nel giro di pochi decenni dei punti di riferimento tale da riconoscere la santità, e secondo me vanno ricordate, perché uno ha l'idea che i santi siano semplicemente almeno qualche cosa che non fa parte della nostra contemporaneità. Invece non è così, e dall'altra parte invece il piccolissimo, giovanissimo San Francesco Marto, che era uno dei tre contadinelli di Fatima, delle apparizioni della Madonna nel 1917, e che morì peraltro subito dopo. Ricordo a tutti che era Lucia dei tre di Fatima, quella che poi divenne la suora, quella che scrisse anni dopo, rese piena confessione sul famoso terzo mistero di Fatima e così via. Invece questo bimbetto Francesco Marto morì nel 1920, aveva 10 anni, era uno dei tre appunto testimoni delle apparizioni, naturalmente per chi ci crede, però insomma Fatima è una grande tradizione. Altri anniversari: oggi nel 49 nasceva il Patto Atlantico, nel 1960 si inaugurava a Milano il grattacielo Pirelli, che pensate all'epoca era il più alto d'Europa con i suoi 127 metri. Molti buoni compleanni oggi a Loris Capirossi, che a me è sempre stato simpatico, campione di motociclismo, alla Mannoia e a De Gregori, perché Francesco De Gregori è un grandissimo della musica italiana, secondo me. Generale dietro la collina. Vedi? Te ricordi le parole? Come no. Assassina. In mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina. Di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Beh, signore, un grande Oscar Giannino. Ma no, vabbè, se, perché si torna giovani, per così dire, va bene. Però merita compleanno, perché insomma ha fatto e continua a fare, secondo me, dischi straordinari. Non è il genere di musica che mi fa impazzire, però ragazzi, testi e musica di quelli che hanno coinvolto generazioni e generazioni intere. Ah, continuiamo. Beh, beh, insomma, in generale, devo ammettere, rispetto alla politica, io continuerei fino alla fine a cantarla. Sarà il generale della politica, no? Sì. Va bene, no, oggi non parliamo di politica, ma parliamo di queste... posso dire una cosa? Mi ha colpito qualche giorno fa, per caso risentendo l'ultima strofa, perché dice: generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle. Ah. Non ci avevo mai fatto caso, che dice, era che anche un profeta politico. Un profeta, sì, no. Perché gli dice: che senso hanno dentro questo mio treno? Ma no, era una casualità, però non ci avevo mai fatto caso. Allora, si avvicina la Pasqua e nel centro outlet di Serravalle Scrivia, che non so, forse conoscono più quelli che stanno nel nord Italia, però è un centro outlet molto importante, 2500 dipendenti, quest'anno ci sarà forse il primo sciopero. Sciopero perché? Perché sono le questioni che di tanto riaffiorano, Non si vuole lavorare nel giorno di Pasqua, visto che l'outlet rimarrà aperto per decisione della proprietà. E tante volte, caro Oscar, questo tema viene fuori, ovviamente durante le festività, cioè se sia giusto lavorare è un tema anche la domenica. La liberalizzazione dell'apertura dei negozi, esatto, in Italia ha sempre avuto resistenze. Esatto, e d'altronde i dipendenti dicono: abbiamo anche delle famiglie, insomma, ci sacrifichiamo, lavoriamo, abbiamo scelto certamente questo lavoro, ci piace, però magari a Pasqua vorremmo stare con le nostre famiglie. È anche un tema che coinvolge anche la religione, no? Perché chi crede dice: bisogna santificare le feste. Spesso hanno detto santificare. Però ci sono state anche eccezioni. Ci sono state eccezioni. Il parroco di Serravalle Scrivia, per esempio, ha detto: ma insomma, la Pasqua, la domenica non è mai stata molto santificata, Non si capisce perché adesso. Oggi, però, su Avvenire, il Monsignor Viola, che è il vescovo di Tortona, dice: il tempo non è più dell'uomo ma del denaro. Quindi il vescovo in qualche modo, secondo me, è voluto intervenire anche per ristabilire una gerarchia ecclesiastica. Sì, la gerarchia richiama l'interpretazione Tortona, autentica, no? Per la quale, figuriamoci, cioè, siamo schiavi del denaro. Il problema è che non si può il giovedì, scrive ieri Alberto Mingardi, che senso ha? Ci lamentiamo il giovedì che... è chiuso il negozio la domenica e poi il venerdì ci lamentiamo che l'Italia non cresce. Insomma, non lo so, la liberalizzazione è fatta per consentire a ciascuno di poter dare di poter dare un'offerta ritagliata sui tempi, gli stili di vita e le abitudini di consumo di chi magari gli altri giorni non può, tanto per cominciare. Questo sulla domenica, si vuole capire se la domenica di Pasqua sia un'eccezione di Pasqua in questo. Per moltissimi è una domenica come tutti, o no? Sì, per moltissimi sì, ma per molti dipendenti magari no. Ma cioè, mica si parla di lavorare senza pagare. Cioè, questo è uno dei punti. Non vorrei che, siccome oggi c'è su Repubblica la cosa del contratto all'Oltrepò Pavese con i 70 pagati in euro meni, allora, no, non stiamo parlando di quello. Tra l'altro, io pagherei in euro meni i politici, visto che dicono che coi vitalizi hanno risolto il problema. Benissimo, allora paghiamoli in euro meni, così vediamo se hanno risolto il problema il o meno. L'euro meno. Ma per dire, mi è venuto in mente quello stamattina, perché effettivamente no, vedere che quella è un aggiramento delle regole bella e buona, e la cosa incredibile che testimonia come in alcuni ambiti dei lavori nel settore logistico purtroppo domini ancora la paura della denuncia, è che moltissimi di coloro che hanno ricevuto quel contratto denominato in valuta romena, insomma, non lo licenziavano per paura di perdere quel lavoro. Ecco, però voglio dire, noi non stiamo parlando dell'apertura domenicale del commercio di questo. No, è chiaro. Però vogliamo, perché per esempio per i sindacati, ieri Anna Maria Furlan della CISL su Avvenire ha detto che questa di Serravalle sarà il simbolo di una battaglia contro lo snaturamento del lavoro, uso il virgolettato delle sue parole. Infatti qui abbiamo Gigi Petteni, che è segretario confederale CISL, che salutiamo, buongiorno e buongiorno, benvenuto. A voi. Così come abbiamo, la ringraziamo, Daniela Bricola, che è il direttore del Centro Serravalle Designer Outlet. Buongiorno, buongiorno. E grazie di essere qui. Allora, grazie Petteni, davvero è come dice Furlan, come dire, una battaglia da portare avanti contro, ripeto, lo snaturamento del lavoro? In che cosa è snaturato il lavoro se si lavora la domenica? Ma innanzitutto parliamo di organizzazioni sindacali che in questi anni hanno assunto grandi responsabilità. Non siamo scappati quando abbiamo dovuto affrontare tante situazioni questo nel terziario e non solo. Attorno a questi temi, che sono sempre temi delicati quando ti trovi di fronte a coniugare le esigenze dell'impresa con quelli dei lavoratori. Però io credo che bisogna che ci fermiamo anche a fare una riflessione. Cioè, siamo partiti con le domeniche, una domenica al mese, il mese di dicembre, poi siamo arrivati a questa liberalizzazione. Ci fermiamo a fare una riflessione se questa liberalizzazione totale ha creato più occupazione e ha aumentato i consumi? Ci fermiamo ogni tanto a riflettere sugli effetti di queste scelte, perché io credo che oggi il tema dei consumi non sia un tema solo di orari, ci sia un tema di reddito, ci sia un tema che anche dentro il settore è una apertura selvaggia totale, possa creare degli squilibri. Allora quello che noi poniamo, quello che la CIS pone è: facciamoci una riflessione, cioè dobbiamo continuare all'infinito in questa corsa senza riflettere sugli effetti da questo punto di vista. La politica sta talmente riflettendo. Ma sulle liberalizzazioni, appunto, cioè, figuriamoci quanto riflette la politica sulle liberalizzazioni, non le fa mai. Esatto, la legge sulla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, passata alla Camera, da 2 anni e mezzo è ferma al Senato, così è e ferma. E sappiamo perché i partiti sono come sempre a gara a credere di aggiudicarsi i voti della maggior parte degli iscritti alle associazioni che rappresentano il settore. Infatti, se mi permette, certo. Io credo che la scelta non sia esattamente quella di consegnarsi totalmente a una liberalizzazione che viene decisa dalla politica, ma io credo che ci sono anche degli strumenti fatti dalle parti. Penso alla contrattazione di secondo livello, che è stata in grado di affrontare tante situazioni in cui lavoratori e imprese sono in grado di trovare delle soluzioni, cioè per cui ma la legislazione... Ma si figuri se io che da anni sottolineo la responsabilità della CISL, in particolare a favore della contrattazione di secondo livello e di produttività territoriale e così via, questo è un merito storico che avete fatto oggettivo, no? E non si può negare, va sempre sottolineato, vi è sempre anche esposto a delle polemiche roventi, a degli attacchi personali, vi hanno bruciato le sedi, si figuri se non ce lo dimentichiamo. Proprio per questo dico, però, contrattare è un conto, dire no, chiudere, sfruttamento, eccetera eccetera, secondo me, dal punto di vista del linguaggio, della sostanza, del messaggio, è un'altra cosa. Ve lo dico proprio seguendola, come vede. Però vediamo un attimo da Daniela Bricola, per capire intanto qual è il clima a Serravalle, perché oggi Avvenire fa un'inchiesta dicendo che molti saranno per lo sciopero, altri no. Serravalle sarà aperto e quanti si prevede che sciopereranno? Forse non lo saprà lei, ma insomma il polso della situazione ce l'ha, no? Sì, più o meno, insomma, stiamo cercando di comprendere, di capire. L'idea di poter scioperare è un diritto sacrosanto, quindi aspettiamo anche di vedere quale sarà la scelta finale. Il centro rimarrà regolarmente aperto. Ad oggi moltissime persone che lavorano nel centro ci stanno riportando il desiderio di venire a lavorare. Quello che è stato comunicato dai media pone l'accento sul fatto che c'è una protesta diffusa. Così non è, purtroppo o per fortuna. La protesta è circoscritta ad un numero molto limitato di persone che non sono d'accordo sull'apertura e che quindi stanno manifestando proprio dissenso. Ce n'è una stragrande maggioranza che invece è di parere totalmente opposto. Poi il nostro è un distretto che oggi vede la presenza all'interno dell'area di più poli commerciali, per cui c'è anche la voce di chi si fa sentire ma non appartiene al nostro, diciamo così, al nostro centro. Sì. Vorrei ricordare anche, se mi è permesso, che il nostro centro ha fatto questa scelta quest'anno, ma ci sono moltissimi altri centri in Piemonte che questa scelta l'hanno fatta anni fa. Certo. Non siamo assolutamente i primi, siamo i più grandi d'Europa, ma non siamo stati pionieri in questo tipo di decisione. l'analisi ci dice che almeno altri 5 outlet in Piemonte faranno la stessa cosa e certi stanno operando in questo senso da molti anni. Poi il confronto non deve essere soltanto con gli outlet, noi competiamo oggi con uno scenario estremamente variegato di offerta e di proposta commerciale. Se guardiamo anche il mondo del web e l'e-commerce, va nella direzione del servizio alla clientela. È il cliente che guida e che decide come e quando desidera fare acquisti. E noi secondo lei il cliente anche la domenica di Pasqua si prevede un afflusso, si prevedono persone che percepiscono questa domenica come una domenica come tutte le altre, per cui affolleranno il centro? L'outlet? Ma la possono magari prevedere marginalmente come tutte le altre. Noi per esempio abbiamo fatto la scelta di aprire a mezzogiorno e di non aprire alle 10, certo. Per cui anche i turisti che arriveranno con le navette dalle grandi città troveranno la ristorazione aperta e il centro aprirà un pochettino dopo. È stata una scelta dettata dal fatto che si riesce a concentrare quindi con un turno, diciamo così, unico la forza lavoro, e si dà anche la possibilità di dedicare una parte della giornata ad altre cose. Poi il nostro centro, è una destinazione distante dalle città, sì. Mediamente il nostro cliente guida un'ora, un quarto, un'ora e mezza per raggiungerci, quindi per cui è difficile che riesca l'italiano che lavora tutta la settimana a venirci a trovare durante il periodo infrasettimanale perché lavora. Ma come quindi capita spessissimo poi agli outlet, cioè è una delle caratteristiche, certo, del tipo di stile di consumo, quello di dover avere un tempo che nella vita ordinaria, per come funzionano i turni di organizzazione di ciascuno, non è compatibile col fatto che infatti non è in discussione la domenica in generale, credo. In questo caso è in discussione la domenica di Pasqua, che è una domenica per alcuni, una domenica un po' particolare, come fosse Santo Stefano, dove appunto a Natale o il giorno di Natale stesso. Ho capito, però tu capisci che se lo facciamo per tutti Sant'Alessandro sono 40 volte l'anno. No, lo dico perché non ci dimentichiamo che poi c'è lo Shabbat, c'è il venerdì per gli islamici. No, però voglio dire, non penso che Petteni ne faccia una questione religiosa, religiosa. No, ma Petteni è stato responsabile, totalmente... No, Petteni, la questione religiosa è totalmente al di fuori, nel senso, il vostro discorso. Mi andava bene Sant'Alessandro perché è il patrono della mia città, ma infatti. Beh, a parte questo, volevo sottolineare che quando la legislazione prevedeva una domenica al mese e le domeniche di dicembre, sì, noi abbiamo fatto un contratto, magari neanche firmato fra tutte le organizzazioni, in cui si era cercato di trovare una soluzione, cioè aggiungendo delle domeniche purché non superassero le 24, cioè noi anche prima della legislazione contrattualmente avevamo affrontato questi temi qua, per cui cioè, non è che siamo scappati di fronte all'evoluzione, al cambiamento dello stile del consumo delle persone sotto questo aspetto qui, affrontando anche temi delicati. Io non vorrei adesso deviarvi, ma io ebbi una controversia molto forte negli anni 80 quando scambiamo investimenti con utilizzo degli impianti. E ci fu allora il compianto Cardinal Tonini che scrisse ai sindacalisti che facevano questi accordi, e abbiamo affrontato una discussione seria, forte, delicata rispetto a questi temi. Quando ti trovi di fronte l'impresa che ti fa un investimento e tu attraverso questo investimento qui puoi allargare la base occupazionale, toccando la vita delle persone, cioè per cui le parlo anche avendo vissuto in prima persona tanti di questi travagli qui. Ecco perché io credo che sia arrivato il momento, non dico che dobbiamo negare e dire non si lavora più, viva tutto, lunedì... No, però lei chiede una riflessione, cioè di fermarsi, interessante soprattutto la riflessione, a dire tutto questo ha portato a una liberalizzazione, ha portato a maggiori consumi, però Oscar è una questione anche di libertà, proprio no, maggiore libertà. Però io non sono contrario alla riflessione, io dico solo che per riflettere non è necessario fermarsi. Riflettiamo e sono d'accordissimo, vediamo quello che volete, perché poi c'è chi dice in Europa è tutto chiuso, non è vero, però vabbè, tanto c'è chi lo dice, lo ripete. Ci chiamano. Paesi e paesi, i modelli sono diversi, gli stili di consumo sono diversi, anche la distribuzione delle possibilità di organizzare i grandi megacentri di consumo è diversa, perché i paesi hanno, per così dire, una diversa situazione orografica di trasporto. Tutto questo è diverso da prendere in considerazione, e mi va bene tutto, purché però non si dica chiudiamo obbligatoriamente, perché io, figuratevi, gli orari d'apertura non li delegherei alla legge. Ecco. Però è necessario per noi fermarsi e riflettere un attimo, che c'è la pubblicità. Questo sempre. Però 800 c'è soprattutto 800 24 0024. Tra poco rientriamo, state con noi. 24 mattino, attenti a noi due. Allora Oscar, stiamo parlando della vicenda di Serravalle. Con noi ci sono Gigi Petteni della CISL e Daniela Bricola, direttore del centro Serravalle. Ci sono tanti ascoltatori che ci chiamano. Tra l'altro voglio ricordare che domenica Radio 24 farà uno speciale proprio dedicato anche a Serravalle, quindi tra poco vi daremo anche i dettagli sull'orario. C'è Gianni da Verona, buongiorno. Gianni. Sì, buongiorno. Eccoci. Dunque, io faccio l'autista praticamente e potrei prendere in considerazione le due cose, sia i contratti rumeni in Italia per esempio, sia le aperture domenicali dei centri commerciali, che all'inizio si diceva perché si uniforma l'Europa. Ma se lei va in giro per l'Europa praticamente, centri commerciali non ce n'è aperto nessuno. Se lei va in Germania per esempio, se vuoi qualcosa la domenica se lo deve procurare il sabato, altrimenti è chiuso. E secondo lei è un buon modello? Secondo me è un buonissimo modello. Ah sì, che se uno solo la domenica può acquistare, è meglio trovar chiuso. E dov'è buono? No, io chiedo, mi spiego. Allora facciamo un altro ragionamento. Perché far lavorare le persone per pagarle nulla praticamente la domenica? Tu vuoi il servizio la domenica? Lo paghi una persona. Ma stiamo ragionando sul fatto che si utilizzano le persone come noi autisti con contratti, che lei prima ha detto dovrebbero essere pagati con i derivati dei soldi che prendono con i contratti rumeni. La interrompo, se non era chiaro. Perché invece era chiaro, quindi lei è un deformatore di professione. Io ho detto, scandalizzato di fronte alla vicenda che emerge di lavoratori nella logistica pagati in contratti rumeni, e ho sottolineato 3 volte il fatto che siamo ancora in un paese dove in alcuni settori c'è la paura di denunciare cose di quel genere che aggirano le norme. Lo ripeto senza perdere il controllo, perché non posso credere che lei non l'abbia capito. Quindi sta abitualmente, evidentemente, gli deve capitare abitualmente, deformando quello che sente. No, io non ho sostenuto questo, ho sostenuto che la domenica bisogna stare aperti, pagare, tutto giusto, ecco, punto, caro Gianni, punto. Comunque, il reportage sarà domenica dalle 8.15 alle 8.30 del mattino, qui su Radio 24 ovviamente. Andiamo a Chieti da Agostino, buongiorno. Buongiorno Oscar, buongiorno Alessandro. Eccoci. Sono Agostino Sciascia, telefono da Chieti. Per vostra fortuna sono anche juventino. Benissimo, noi accettiamo tutti. Va bene. Volevo fare un intervento sul tema della liberalizzazione degli esercizi commerciali la domenica e così via. Favorevole o contrario? Mi sembra un discorso surreale, sono assolutamente favorevole e volevo affrontare proprio il tema di quello che sta succedendo nel mondo, di questo cambiamento così profondo, così veloce, che sta sconvolgendo qualsiasi tipo di abitudine e che è collegato all'e-commerce, al mondo del digitale. Abbiamo negozi aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Mi sembra però online, qui è una questione dei dipendenti che devono lavorare, cioè l'e-commerce non prevede che ci siano delle persone che debbano andare a lavorare. Lì, nel senso che questo è il tema di cui discutiamo oggi. Sì, ci sono persone che lavorano anche... Nell'e-commerce, nell'e-commerce comunque nella logistica mossa dall'e-commerce c'è chi lavora, come no? Assolutamente. Io mi riferivo all'aspetto collegato al fatto che bisogna essere sempre più competitivi e dare un servizio completo, perché altrimenti poi magari fra 2 anni non avremo più ipermercati o supermercati. Avremo solo il digitale. Ma è chiaro, Agostino è molto chiaro. Io vorrei fare una domanda a Daniela Bricola, perché un ascoltatore in realtà lo chiede, dice: secondo me, chiede l'ascoltatore via WhatsApp, la cosa importante è che i lavoratori non siano obbligati, possano scegliere se poter lavorare la domenica di Pasqua oppure no. Non credo che sia sempre facile così, Bricola, perché se un datore di lavoro dice, non so, di un marchio dell'abbigliamento, dice bisogna tenere aperto, non è che uno dice io me ne voglio stare a casa, no? Sì, certo, nell'ambito della facoltà che è prevista ai sensi della legge, va da sé che realtà come la nostra, che vedono il 50% del nostro business, svolgersi e messo a frutto durante i periodi festivi, i weekend, i ponti e le festività, è anche abbastanza naturale che siano momenti in cui le aziende chiamano i propri collaboratori a lavorare. D'altro canto, le persone bisogna servirle quando ci sono. La signora Camusso è venuta la settimana scorsa a trovarci, è arrivata alle 7 ed effettivamente il centro non aveva una presenza massiccia di visitatori, proprio per le ragioni che abbiamo citato prima. E quando un'azienda come la nostra investe in uno sviluppo incrementale rispetto al dimensionamento che ha già, 115 milioni di euro per raggiungere 60 punti vendita e alimentare l'assunzione di 400 persone, poi questo business lo deve sostenere. No, ma questo, quello che sta dicendo è una cosa fondamentale, perché una delle osservazioni che fanno tutti, come credere che la scuola sia per chi ci lavora invece che per chi la frequenta, allo stesso modo si ha l'idea che i negozi siano per chi ci lavorano, non che il negozio, la distribuzione, sia essa piccola, media o grande, in realtà è uno dei canali di sostenibilità per l'impresa di distribuzione e per le imprese che ci mettono i prodotti dentro, cioè in altre parole è per il cliente, senza di cui i posti di lavoro non esistono. Questo, chi invece obietta, no, perché così obbligate a lavorare, semplicemente ci sono meno posti di lavoro se non si dà la possibilità al cliente di comprare, e che in Italia si ha l'idea, come dire, che il reddito sia una torta fissa che esiste a prescindere, il problema è come dividersela, non quella che non c'è la torta se non è aperto il negozio. È proprio una differenza di fondo. Io mi rendo conto che è difficile a volte spiegarlo, però è come ha detto adesso chi rappresenta l'outlet, se noi teniamo chiuso quando la gente è più disposta nella sua insopprimibile libertà a consumare, le aziende che vendono attraverso quei negozi e quei negozi come imprese di distribuzione avranno meno possibilità di dare lavoro per tutti, punto. Ecco, è così difficile? Forse sì. C'è Tommaso da Monza che ci chiama, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io volevo dare semplicemente la mia testimonianza dalla parte di chi il lavoro lo dà, per fortuna. Sì. Io sono proprietario di una grande superficie su Monza, e noi abbiamo fatto la scelta da anni di tenere aperte tutte quante le domeniche. Due considerazioni molto semplici. La prima è che questa mi ha consigliato di assumere più persone, perché devo coprire il lavoro domenicale con dei contratti tipici fatti in questo modo. L'altra cosa importante è che ho fatto un esperimento quest'anno scorso, ho tenuto aperto mezza giornata a Santo Stefano, pensando di fare quasi una mezza bestemmia. Invece la gente è venuta a comprare in modo abbondante anche Santo Stefano. Io sono molto d'accordo con il signor Giannino quando dice che bisogna seguire quelle che sono le esigenze del cliente. Se le aziende tengono aperte la domenica o le festività, lo fanno per convenienza, lo fanno perché intercettano un'esigenza o disponibilità da parte della clientela, diversamente non lo farebbero. Io faccio una domanda allora banale, la faccio a Oscar, la faccio anche a lei, agli ospiti. Quindi un lavoratore che in questo caso non vuole sottostare a questo tipo di discorso, si trovi un posto di lavoro alternativo che lavorare in un outlet, per capire, no? Perché voglio dire, ci sono delle situazioni che non sono compatibili. Se uno vuole stare a casa a Pasqua, non deve trovarsi un lavoro. Ma scusa, no, Alessandro, ma tu credi che cosa esistono? I turni di lavoro 7 giorni su 7, 24 ore su 24? Oh, allora, perdona. No. Come ha appena detto Tommaso da Monza, chi ha l'apertura 7 su 7 organizza turni, certo, manodopera aggiuntiva. Ho capito, ma in clienti, questi turni servizi, ti può capitare di lavorare Santo Stefano, ti può capitare, ma non è che lavori significa la mia domanda che sei lavori forzati e cambi, no, per questo. Ho fatto una domanda banale, ho detto se uno quindi vuole escludere la possibilità di lavorare a Pasqua, si trovi un altro lavoro che lavorare in un outlet. Se lavori in un outlet c'è la possibilità di lavorare a Pasqua. No, scusa, come? Allora, beh, come no? Ma no, perché sì, non è così, perché è come no, tutte le, ma no, perché scusami, al di là qui tutti prendono le ferie quando vogliono? La risposta è no. Ma infatti, se io voglio avere la possibilità di lavorare, come dire, di non lavorare al 100% al 25 aprile, cambio lavoro. Ah, cambi lavoro. Ma però non è solo come vedi, indipendente che... dall'apertura, però, del giorno di Santo Stefano. No, questo capita, però, se uno vuole le ferie quando dice lui, con l'azienda dice il turno quest'anno dice di no, cambi, allora cambi, ma è solo per questo. Ma infatti la questione è questa, non so. Petteni, vabbè, ma come ne veniamo fuori da questa storia? Nel senso che ne veniamo fuori, sono discorsi che poi vengono sempre fuori di tanto in tanto quando ci sono le festività. Sì, però adesso facciamo anche una descrizione reale, cioè in questo paese qui, cioè non è che di fronte ai problemi imprese e lavoratori non hanno trovato le soluzioni. Ecco perché io le farei un invito alla responsabile presente. Ho sentito che prima ha detto la legge lo dice. Ecco, mi piacerebbe che usassimo di più il termine il contratto, che è una cosa che decidiamo fra di noi, che decidiamo. Perché se è vero, come diceva anche lei prima, molti ce lo chiedono, allora significa che dobbiamo lavorare per trovare le esigenze reciproche, perché la vita non è solo sì no, cioè bisogna lavorare per trovare i giusti equilibri. In moltissimi casi questo è stato possibile, per cui l'idea, ormai tutti lo sanno che bisogna mettersi tra domanda e offerta, cioè non è che uno può stare solo da una parte, se si trovano i giusti equilibri con la giusta responsabilità, con una partecipazione anche dei lavoratori, i lavoratori sono un soggetto di responsabilità. Benissimo, no, ma è chiaro. Grazie. Si fermi qui anche perché il tempo è scadutissimo. Gigi Petteni, grazie CISL. Daniela Bricola, Centro Serravalle Outlet. Ma l'hai letto il titolo? Fuga dai faccia a faccia in TV, la nuova strategia di Renzi. Sì. Ma non criticavano i 5 Stelle perché volevano esattamente questo. Ma com'è? Quando lo fanno loro va bene. Vabbè, adesso è in vantaggio, quindi non vuole dare modo di recuperare. Mondo asimmetrico. Va bene, a domani.